sfiorarti una mano, se ci credi nessuno potrà. Ogni lotta è per la tua libertà. Sera è probabile i pianti, se ci credi nessuno potrà. Ogni lotta è per la tua libertà, come è triste dover aspettare, quanto è dura questa nostra realtà. Cercare qualcosa, posso dirti solo coraggio, se ci credi nessuno potrà. Ogni lotta è per la tua libertà, come è triste dover aspettare, quanto è dura questa nostra vita.